E buonasera a tutti, mentre sono le 21:06 minuti, iniziamo questa trasmissione di oggi, 3 dicembre 2012, dei colori dell'anima e come sapete questa trasmissione va in onda ogni lunedì in diretta dalle 21 alle 22. Abbiamo cominciato con un brano musicale di Vito Borelli, Elena mangia le rose, con la nostra sigla dei colori dell'anima e adesso entriamo subito nel vivo della trasmissione. Allora, intanto saluto Anna Maria. Buonasera Buonasera a tutti. a te. E saluto quindi successivamente due ospiti. Allora, cominciamo con una ospite, una veterana, chiamiamola così, Fiorella Cavaliere. Buonasera Fiorella. E Buonasera a tutti e grazie di averci rinvitato. poi l'altra ospite invece nuova, prego. Daniela Rizzo, saluti a tutti. Buonasera a te Daniela. Allora, le nostre ospiti Fiorella e Daniela questa sera che fanno parte dell'associazione VAI, Volontarie Assistenza Italiani, ci parleranno di questa associazione, di quello che fanno, di quello che hanno fatto in questi anni, ma soprattutto di quello che faranno in futuro, nel futuro diciamo prossimo e anche un po' più lontano. E abbiamo già chiacchierato con loro e in particolare con Fiorella un anno fa circa, per così vedere un po', far conoscere diciamo, questo mondo della loro associazione ai radioascoltatori di Radio Alma, e però riteniamo che insomma, se ne può parlare ancora, soprattutto perché ci sono anche delle novità che riguardano questa associazione, soprattutto per quanto riguarda le attività da voi organizzate. E quindi io comincerei subito con te, Fiorella, se ci vuoi fare così da un anno fa, quante cose sono successe in questo anno? Ma vi ringrazio di nuovo per l'ospitata, si dice così, ci dà la possibilità di farci conoscere, ma soprattutto di ringraziare tutti coloro che dall'anno scorso ci hanno seguito. Cioè, grazie a voi qualcuno di più ci ha ascoltato, è venuto ai nostri eventi, ai nostri teatri e ci sta seguendo. Dunque, è un modo anche per ringraziare tutte quelle persone che una volta, due volte, però ci tengono per mano e ci accompagnano. Dunque, dall'anno scorso, ci siamo un pochettino presentati. Abbiamo presentato questa associazione che è su Bruxelles, nasce nel 98 dopo la chiusura della Croce Rossa italiana, quando la Croce Rossa chiude tutte le sue sedi estere. Dunque, per continuare, le nostre Croce Rossine. Dunque, abbiamo un passato istituzionale, Storico. storico, Croce Rossa, cioè questo non bisogna dimenticarlo, non è un'associazione nata così nel nulla, è un'associazione che ha della storia, cioè una storia italiana, una storia di esperienza, anche di preparazione, perché tutte le persone che sono poi confluite e hanno fondato la VAI erano tutte Croce Rossine, dunque persone che erano preparate per affrontare questo tipo di lavoro. E questo tipo di lavoro l'hanno continuato soprattutto dopo la tragedia di Heysel. Hanno visto gli italiani ed erano le prime ad essere accorse sul posto della tragedia. Sono coloro che hanno aiutato feriti e soprattutto anche le persone che sono venute qui per purtroppo riconoscere i loro cari. Dunque, e all'epoca, come dicevo l'anno scorso, l'associazione nasce anche per aiuta a supportare in tutto tutte quelle persone che vengono qua, gli italiani, per sottoporsi a dei trapianti, soprattutto ai trapianti di rene. Dunque, era una prise en charge completa dal posto in ospedale, dal contatto con i medici, anche perché poi non bisogna dimenticare che erano persone che non parlavano il francese, quindi bisogna Esatto. fare tutta l'opera di traduzione. E come dicevo l'anno scorso, sentirsi male è brutto, figuriamoci sentirsi male in un paese straniero, non potersi spiegare. Dunque, c'era tutta questa opera morale di supporto, non solamente all'ammalato, c'era il supporto anche di far capire al medico, perché ogni popolo poi quando è ammalato ha una certa sua, come dire, una certa sua peculiarità, no? Noi forse. Sì, ognuno ha le sue reazioni. Ecco, perciò forse qualche reazione che i medici belgi non potevano capire, le nostre Croce Rossine erano lì per fare un pochettino da tramite e soprattutto anche per supportare e aiutare i familiari che venivano di accompagnamento. Dunque questo poi è una parte, è un aspetto della VAI che non è mai cambiato nel tempo, ancora oggi queste persone vengono in ospedale per sottoporsi ai controlli e poi naturalmente sapendo gli ospedali, soprattutto Erasmus, che ci sono delle Croce Rossine, delle persone VAI che conoscono l'italiano e tutto qua, negli ospedali si indirizzano a loro, l'istituzione stessa ospedaliera alle nostre croce, quindi alle nostre volontarie. L'istituto si appoggia a voi, sì. In qualche dunque, maniera. Le nostre sono sempre presenti. Anche per traduzioni. Per traduzioni. Dunque sono lì tutte le settimane. Però, come dicevo l'anno scorso, via via è cambiato anche l'apporto VAI. La VAI oggigiorno si occupa di tutto, cioè dal pagamento delle bollette, della luce, gas, affitto, rette scolastiche, molte volte anche, come c'è stato, anche di pacchi viveri. Ecco, a questo proposito vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che la VAI non riceve sussidi pubblici di nessun tipo, quindi niente. È un lavoro eccezionale quello che fate, effettivamente. Vi ringraziamo, sì, cioè noi siamo sempre lì a cercare soldi, anche perché purtroppo ci tocca anche l'ingrato compito di scegliere fra le differenti necessità. Cioè, se noi avessimo molti soldi, vabbè, ok. Giustamente dovete dare delle priorità. Dobbiamo dare delle priorità. E scegliere fra le malattie, fra le povertà, non è facile. Assolutamente. E, dunque, per questo che noi facciamo sempre appelli a fondi, aiutateci, venite agli spettacoli, agli eventi. Non ci mettete in questa situazione di dover scegliere. Di dover perché dire la cosa non possiamo. Noi non possiamo. Chi siamo noi per poter scegliere se una persona è più meritevole di un aiuto piuttosto che un altro? E purtroppo quella forse è la parte più ingrata. Noi adesso, oggigiorno, ci occupiamo di quasi 60 famiglie. Però, come dicevo l'anno scorso, c'è una malattia, fra virgolette, la malattia della solitudine. E sono soprattutto le persone anziane che sono qui, sono quelle persone che sono arrivate tantissimi anni fa, sono coloro che hanno forse portato per la prima volta il nostro essere italiano qua in Belgio. Sono arrivate forse non conoscendo neanche a volte l'italiano, conoscendo un dialetto, non conoscendo il francese, però sono qui e sono coloro che hanno fatto la nostra storia. Direi che hanno fatto anche una piccola parte della storia del Belgio. Ah sì, diciamola. Sì. Una grande, Adesso io non voglio essere troppo nazionalista, però siamo fieri di quello che è stato fatto nel corso degli anni. Sì, ma se siamo noi così è grazie a loro, perché loro sono la nostra storia. E io penso che oggigiorno bisogna un pochettino adesso, fare a loro ciò che hanno fatto a noi, a noi, cioè ricoccolarli, no? Prenderli in carico, perché poi sono persone che sono sempre state forti, hanno sempre lavorato, non si sono risparmiati di niente, hanno sempre fatto per gli altri. E io penso che raramente loro abbiano avuto qualche cosa per loro. Dunque adesso forse è il nostro compito di fare qualcosa per loro, cioè noi dobbiamo fin dei conti coccolarli. Come coccolarli? Può essere anche andarli a trovare, andarli a parlare in italiano. Noi abbiamo intenzione forse di fare un pranzo per la prima volta con queste persone, invitarli a pranzo, chissà da quanti anni loro non vanno in un ristorante, forse non ci sono mai stati, no? Forse. Le signore saranno ben vestite, i signori saranno tutti galanti, non lo so, io mi immagino questa cosa qua, non lo so, forse abbiamo troppi soldi, perché io in questi purtroppo non sono da sola, vorrei a volte frenarmi, ma adesso purtroppo. E dunque vorremmo coccolarli, prenderli in carico, perché sono loro farli che sentire a casa in qualche modo, non solamente a casa, ma dargli un pochettino tutte quelle cose che loro da giovane non hanno mai avuto, e voilà. Coccolare i nostri anziani, sì. Allora chissà, forse a volte andare a trovarli, abbiamo bisogno di persone che li vadano a trovare, far parlare italiano, cioè fare una partita a carte, sì. E farli parlare soprattutto, giusto, perché tutta questa memoria, e farli magari anche raccontare. Io adoro sentire le storie delle persone, delle persone più grandi di me che raccontano. Certo. Sì. I nostri nonni, no? Anche i nostri poi, nonni, assolutamente. Se noi ci, non so voi, ma io, cioè la maggior parte qui, noi siamo tutti espatriati, senza radici, i nostri genitori, i nostri nonni e chi ci è rimasto è tutto in patria, no? E beh, allora adottiamoci un nonno a questo punto. Certo, certo. Deve essere una bella campagna, adottiamo sì. un nonno. Sì, molto sì, bello. Cioè, chi vuole adottare a me non lo so. Ma tu non sei nonna. Io non puoi essere adottata. Allora, io propongo di fare una piccola interruzione, ovviamente torneremo a parlare della VAI, parleremo anche del colore che avete scelto per la trasmissione di questa sera e mi raccomando quindi rimanete sintonizzati sui colori dell'anima, ci ritroviamo fra pochissimi minuti. E questa era Giorgia naturalmente su Radio Alma alle 21:20 mentre state ascoltando la trasmissione appunto I colori dell'anima. Questa sera stiamo parlando della VAI che è un'associazione che opera qui in Belgio da moltissimi anni e che appunto come ci spiegava prima Fiorella è una emanazione diciamo della Croce Rossa e di conseguenza quindi vogliamo un po' approfondire le loro attività. Prima di dare la parola a Daniela volevo anche ricordare che le nostre trasmissioni vengono registrate, le potete ritrovare successivamente sul sito della radio che è radioalma.eu/i colori dell'anima, tutto attaccato, quindi semplice. radioalma.eu/i colori dell'anima. Magari tu, Anna Maria, vuoi ricordare il nostro telefono? Sì, certamente. Allora potete raggiungerci allo 02 345 2656. Allora, Daniela, dunque tu sei la tesoriera della VAI, dell'Associazione Volontari Assistenza Italiani. È difficile questo compito? Ti prende molto tempo? E soprattutto è difficile mettere insieme un po' di soldi alla fine dell'anno per aiutare i nostri connazionali? Beh, il tempo lo prende perché comunque se una veramente ci crede, se vuole fare le cose precise e soprattutto nei termini di legge le deve fare bene e non avventatamente, quindi il tempo lo rubiamo un po' alla famiglia, lo facciamo volentieri. E quindi alla fine non pesa, certo c'è un impegno perché alla fine nella nostra associazione di soldi un po' ne girano, nel senso che comunque riusciamo a raggiungere parecchie famiglie, siamo riusciti quest'anno a devolvere finora già circa 16.000 euro. E alle volte sono cifre importanti, alle volte sono piccolissime cifre, c'è gente che non riesce a pagare medicine per 7 euro, quindi la nostra contabilità anche quindi deve... avete la necessità di intervenire anche su questi piccoli, anche su queste, sembra impossibile, spese. Ma c'è bisogno anche, quindi sono registrazioni comunque anche piccole e tante. Abbiamo bisogno di soldi, non siamo sostenute, non abbiamo interventi statali, quindi è tutto opera della nostra buona volontà e della volontà di tutti quelli che ci vogliono bene in un certo senso, ci seguono. Ci sono degli eventi fissi che sono il teatro, noi creiamo l'evento nell'evento, come diceva Fiorella prima. Quindi allo spettacolo, all'introito dei biglietti veri e propri, c'è il buffet, la tombola per i bambini a Natale, quindi in ogni caso nessun bambino esce senza avere il suo piccolo regalo e questo è il regalo della VAI, non è il regalo dei soldi dei biglietti. Quindi la VAI è il vostro apporto è personale. Il nostro apporto personale. Quindi il buffet, le nostre volontarie fanno le pizze, fanno le torte, alla fine di una settimana forse non ci abbiamo neanche più l'appetito, tanto ci impegniamo in questa cosa. Però poi e tutto questo perché vogliamo che la gente si ricordi della bella serata, della bella giornata, abbia voglia di rivederci, ci senta un po' amiche, perché questo li invoglia a tornare. E quindi almeno una volta l'anno a contribuire, a darci qualche cosa che noi devolviamo agli altri. a darvi un sostegno, che sia morale, che sia fisico e che sia soprattutto economico, perché e abbiamo naturalmente delle persone che ci sostengono sempre, come il Monte dei Paschi, che c'è molto vicino, ci offre delle opportunità, e quindi ringraziamo moltissimo queste persone, come ringraziamo tutti i bambini e tutti gli attori che rinunciano anche loro a giochi e vacanze o quello che può essere per volontariato. E io credo che questo sia importante, perché se i nostri bambini imparano a lavorare per gli altri, saranno degli adulti migliori, immagino. È un bellissimo concetto, forse lo dovremmo espandere un pochino di più, e forse i nostri ragazzi non sono ancora molto, molto preparati a questo tipo di attività, a dare qualcosa senza ottenere nulla in cambio. Beh, ma insomma, dagli errori del passato si impara qualcosa, sì, quindi sì, bisogna avere questa speranza e abituarli. E proprio venendo, diceva Fiorella prima, ci telefonano i bambini e ci dicono: ma la Babbo Natale c'è anche quest'anno, noi vogliamo venire a vedere la festa, vogliamo stare con voi. Quindi questa è una cosa bella, e noi speriamo che continui, insomma, certo, a succedere. E Daniela, cosa, concretamente, quindi chi vuole sostenere la VAI, chi cosa deve fare? La a parte VAI, ovviamente partecipare, allora, a parte agli eventi da voi, esatto, organizzati, ma indipendentemente da questo? Allora, può devolvere una cifra, quello che desidera, tanti cioè, zeri, vuoi dire, esatto, non siate generosi, soprattutto a Natale, ecco, per Natale, Epifania, sul conto corrente che abbiamo presso il Monte dei Paschi del Belgio. Il conto corrente è il numero 643 00 20 484 94. Quest'anno ci siamo iscritte a Facebook, abbiamo aperto un sito internet, vaibelgio.wordpress.com, e seguiteci, insomma, perché lì noi facciamo la nostra pubblicità. Abbiamo messo le calze che le nostre volontarie hanno cucito, metteremo le foto dei nostri eventi. Non solo io, perché devo riconoscere che quest'anno ci sono state tante persone che veramente hanno avuto la pazienza di attaccare gli occhietti alle renne, per esempio, e tutte le stelline con gioia, e quindi anche questo ha arricchito me in un certo senso, quindi grazie alla VAI. Sì, ecco, questo che dicevamo l'altra prima, cioè il fatto di occuparsi della VAI, non so, non è un lavoro, è un'occupazione, è una scelta, perché per noi è una scelta. Molte volte ci chiediamo perché lo facciamo, ma non lo so, io non so perché lo faccio, sarebbe più giusto chiedere a chi non lo fa perché non lo fa. Cioè, per me è naturale, come delle altre persone è naturale. Forse ecco, come dicevi tu, sono stata forse abituata fin da piccola a occuparmi degli altri. Dunque per me è un così, percorso personale. Non mi chiedo il perché, lo faccio e basta. E ci porta a instaurare, a conoscere forse delle persone che noi forse non avremmo mai incontrato senza la presenza della VAI, delle persone che ci avvicinano e che ci dicono: ma io posso fare qualche cosa. Dunque c'è, per esempio, la persona senza politica, senza orientamento senza niente, politico, no, religioso, non, no, ci, esatto, importa, semplicemente, ecco, dal cuore, qualcosa che viene, sì, dal cuore. C'è una ragazza che ci ha dato i cioccolatini per riempire tutte quante le calze, ci sono altre persone che ce l'hanno quello, o qualcuno che ci fa sconti veramente veramente notevoli per delle cose della tombola. Dunque, anche chi ci dà vestiti, noi abbiamo bisogno, sì, anche per esempio di raccogliere vestiti usati, li diamo sempre, sì. Adesso abbiamo avuto un appello recentemente, maglioni per ragazze di lana e scarpe, in questo caso ci hanno chiesto proprio al 36, quindi evidentemente c'è qualcuno che proprio ha bisogno, necessità, ha lanciato il suo SOS, quindi ovviamente. Dalle piccole cose bisogna solo forse. E queste persone che hanno la necessità, ecco, di essere aiutate, come vi raggiungono? In che maniera arrivano a voi? E ci raggiungono attraverso, beh, intanto perché ci conoscono, vengono a trovarci nel nostro, nei nostri uffici, che sono, non è questo l'indirizzo, dimmi. No, quello è un indirizzo, no, diciamo che abbiamo varie forme, perché ormai, essendo dal 98 sul territorio di Bruxelles, diciamo che le istituzioni non ci aiutano finanziariamente, però ci conoscono. Dunque, per esempio, il consolato ci manda le persone ad aiutare. Il consolato, sì. Dunque, è un paradosso, siamo noi altri che diamo patronati, le istituzioni, è abbastanza strano. O patronati che ci raggiungono perché sanno. Ecco, quindi queste persone si rivolgono alle istituzioni. Alle istituzioni. E le istituzioni si girano. Ma la patata bollente a voi. Perché noi abbiamo una particolarità, noi abbiamo un approccio capillare. Sai, ci sono molte persone che non si rivolgono anche per i loro problemi alle istituzioni perché hanno paura, perché a volte sono persone che non sono in regola e tutto quanto, o hanno dei problemi. Dunque c'è sempre questa paura, io vado lì, ma poi che cosa succede? Dunque, giusto. Quindi hanno fiducia, voi gli date fiducia come persone umane. Le persone che hanno i soldi pure, sì. Non lo so. Sì, penso di sì, questa cosa lì. Però ecco, noi ci conoscono. Vi conosco. Ormai dal 98 che siamo sulla... E poi, come dicevo prima, siamo ex Croce Rossa. Cioè, sì. Anche se ci chiamiamo Vai, c'è sempre questa presenza alle spalle, dunque, che ci conforta, che ci dà uno spessore, ma sanno che esistiamo. Adesso non... Poi io penso che le persone bisognose sanno sempre dove andare, no? Fra di loro. Sanno chi rivolgersi. Sì, certo. Un pochettino come quando uno ha bisogno, va alla porta della chiesa, c'è sempre la porta della chiesa aperta, che mi dica Venditti. Sì. Noi forse siamo una porta aperta sempre, almeno spero. Ed è bellissimo questo. E comunque se ci fosse in ascolto qualche persona, qualche famiglia, nostro connazionale che ha bisogno, sì, può chiamare Radio Alma oppure può rivolgersi a noi. Tramite noi c'è sempre modo di raggiungerli. La porta è aperta e vi aspettiamo. Volete magari anche dare un numero di telefono, eventualmente? Sì, tu che hai gli occhiali. E io che ho gli occhiali, vero? No, io per che fortuna. 0478 51 87 59. Ecco, grazie mille. Ci potete raggiungere, abbiamo l'indirizzo email per i più vero moderni, che è vai.belgio@gmail.com. Quindi avete Facebook, internet, il telefono, l'email. Cioè, siamo qua, il consolato, Radio Alma. E poi abbiamo questo spettacolo il prossimo fine settimana. Ecco, ma dove di questo ne parliamo dopo. Però prima di mandare un altro brano musicale, Fiorella, perché il giallo? Ah, il giallo. Beh, il giallo è un colore molto difficile a portare. Però il giallo è il colore dell'energia. Dall'anno scorso abbiamo scelto il verde, no? Sonia aveva scelto il verde, dunque la speranza. Io penso che abbiamo passato un gradino superiore, adesso siamo energici, abbiamo molte idee, adesso sappiamo di farcela. Uh-huh. E poi sai, nelle religioni orientali si dice sempre che tu regali un qualche... bisogna sempre avere un tocco di giallo in casa, perché quando sei proprio giù, quando è tutto grigio, quel giallo si vede. Il giallo che rappresenta il sole anche in qualche maniera, che ci dà... Sì, il sole, la carica, l'energia. Esatto. Ma soprattutto io lo vedo anche come un faro, cioè è lì. Dunque, noi siamo lì, lo siamo per noi stessi. Un riferimento per gli altri, un riferimento per il futuro, un riferimento per noi. E anche, lei dice, per aiutarci, ma io vorrei anche che le persone ci proponessero delle cose. Cioè, per esempio, prima ho parlato delle persone anziane, no? Vorremmo fare questa festa, questo... perché non c'è un ristorante? Ve lo procuro io, vediamo... Cioè, offriteci delle cose. Qualcuno che si ponga diversamente. Offra, sì. Mm-hmm. Cioè uno non sa, vorrei aiutare, ok, dici la tua idea, noi forse con... Sì, non perché ognuno può dare un piccolo o un più grande contributo secondo le necessità, secondo la disponibilità. Sì, naturalmente ci si mette a disponibilità di ogni tipo, voglio dire tempo. Ma noi non è che abbiamo bisogno di grandi cose. Il fatto che qualcuno ci proponga qualche cosa vuol dire anche che condivide la nostra idea. Dunque ci dà uno stimolo in più ad andare avanti. Certo. Io credo che purtroppo abbiamo assistito a parecchi episodi, no, nella quotidianità, di gente che raccoglie fondi e poi li sperpera, li mette nelle proprie tasche, non si sa che fine fanno. Io sono entrata 12 anni fa nella VAI, ho cominciato a lavorare in ospedale, come volontaria in ospedale, quando ho avuto la certezza che questi soldi non andassero giusto. Esatto, ma non solo, noi non diamo mai soldi alle persone. Vuoi il pacco viveri? Benissimo, ti diamo il pacco viveri. Hai bisogno di pagare l'affitto? Paghiamo il proprietario, il giudice, l'officier giudiziaire, come si dice, la bolletta del telefono. Questo è molto abbiamo importante. Tutti i giustificativi. Sì. Non distribuiamo i soldi degli altri. Non distribuite dei liquidi, questo è importante. Nei nostri, ma né quelli degli altri. E quindi questa, secondo me, è una garanzia. Certo. Tutte le persone che lavorano per noi sono attente, corrette, precise, quindi questo deve incoraggiare le persone a sostenerci, perché non li buttiamo. Ma poi c'è un'indagine dietro, cioè non è chiunque può venire e chiedere. Cioè si fanno degli accertamenti se effettivamente sia il caso di ottemperare quella richiesta. Quindi vi informate, andate. Sì, certo, naturalmente con tutta la discrezione possibile. Dunque ogni caso è vagliato, non è, diciamo, non è che si dà e si finisce in quella maniera. No, viene vagliato, la persona è conosciuta e tutto qua. E poi seguite queste persone che assistete in un modo o in un altro. Ma loro si fanno seguire da noi anche. È molto difficile che una famiglia che è indigente non superi nel giro di breve tempo. Quindi voi la seguite nel percorso e cercate di dargli una mano nella loro fase, qualche volta speriamo temporanea. Qualche volta sperimentiamo. È capitato una persona che non so se per la terza volta ci ha chiesto un aiuto per vendere panelle. Lui voleva vendere panelle, questo signore. Ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto: ma veramente non è già la seconda volta che lei ci prova? No, ma io veramente, guarda, questa volta lo sento. Abbiamo detto: proviamo, lanciamo. Adesso dobbiamo andare a fondo per vedere se veramente finalmente ha realizzato il suo sogno. Quindi, anche perché no, dei sogni, certo. Qualche ragazza che vuole imparare, vuol fare un corso per diventare pasticcera, che ne so, qualche cosa, un ragazzo, insomma. Delle cose molto concrete comunque. Sì, no. Però a parte appunto i sogni, siamo sempre di più chiamati al quotidiano. Al quotidiano, certo, questo non si dimentica. Chiaro. Allora, io propongo un altro brano musicale, naturalmente ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9 e a fra poco. E sfumiamo questo brano, questo pezzo musicale di Giovanni Allevi che si chiama Vento d'Europa. Naturalmente state ascoltando la trasmissione I colori dell'anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22, e stasera in studio con me c'è non solo Anna Maria ma anche Fiorella e Daniela, con le quali stiamo discorrendo di VAI. Allora, c'è una intensa attività che vi attende nelle prossime settimane. Ci potete aggiornare un pochino, magari? Sì, allora, noi abbiamo l'8 e il 9, dunque questo sabato e questa domenica, al Teatro Sant'Agostà, Pierini il Lupo, un spettacolo teatrale, musica e parlato, una compagnia, le piccole canaglie, sono una compagnia di bambini, dunque questo è anche molto bello, questo vedere questi bambini su scena. Sono bambini, tra l'altro, la maggior parte di loro che non hanno mai calcato la scena, dunque hanno iniziato il mese di settembre a ripetere tutto quanto. E come diciamo prima, facciamo uno spettacolo nello spettacolo, vale dire, c'è lo spettacolo dei bambini, bellissimo, venite ad applaudirli perché meritano, perché come diceva giustamente Daniela, sono persone, sono bambini che danno il loro tempo, divertono e fanno si divertono e fanno divertire gli altri, ma le due serate sono interamente a favore della VAI, dunque fanno del volontariato essendo piccoli, un grazie fin da piccoli, un grazie ai registi, e si impegnano perché sono seri, dunque un grazie ai registi Denis Monas e Paolo Gaio, un grazie alle mamme e papà che li accompagnano, anche questo, che li sostengono, che magari cuciono i costumi, c'è un impegno e loro lo sanno chiaramente. Ma noi appunto per fare quel filo conduttore di essere più vicini e poi di regalare uno spettacolo ai bambini, uno spettacolo, una festa accanto, organizziamo una tombola con buffet, da noi si mangia panettone e pandoro, penso che sia diventato un po' un'istituzione a questo periodo dell'anno andare agli spettacoli per la VAI e mangiare panettone e pandoro. Non solo. Soprattutto quello. Dunque, poi c'è l'arrivo di San Nicolà, sarà un regalo, ci sarà la tombola, ogni bambino avrà un piccolo ricordino. Dunque, questo per il mese di dicembre. Il mese di gennaio, invece, ricominciamo con gli adulti. La compagnia Le Teste Matte ha uno spettacolo il 19 e 20 gennaio, sì, a Piedi Nudi nel Parco. Poi sì, invece di marzo abbiamo un grande spettacolo e sono le due compagnie Teste Matte e Piccole Canaglie, e sono in scena con Alice nel Paese delle Meraviglie. Sarà fantastico in tutti fantastico. I sensi. Ci stanno lavorando da più di un anno? Da più di un anno. Tantissimi costumi bellissimi, pensate a tutte le carte di Alice nel Paese delle Meraviglie, perciò immaginate il lavoro che c'è dietro, di cucito, di preparazione, di genitori che vanno tutti i sabati a portare questi bambini, l'impegno dei ragazzi, sono anche adolescenti che recitano in questo caso, sono tanti. Sono quattro serate però questa volta, due weekend di seguito, sì. Dunque, come potete aiutare la VAI? Venendo a tutti questi spettacoli, facendo il pienone, anche perché questi attori se lo meritano, la vostra presenza, soprattutto venire ad applaudirli, non solamente per la loro bravura, ma anche per il loro impegno verso il volontariato. Venendo, non solamente ci saranno molti spettatori, ma visto che il ricavato è alla VAI, dunque anche noi possiamo pagare delle fatture e potremmo aiutare delle quindi persone. Per una piccola informazione pratica, dimmi, per i biglietti sul posto o c'è modo di prenderli? Allora, per questo spettacolo 8 e 9 bisogna telefonarvi per vedere se c'è ancora disponibilità. Purtroppo per domenica siamo già tutti pieni. Per il prossimo weekend, fortunatamente. Però se volete comprare qualche biglietto della tombola, aiutarci, quello ve lo possiamo comprare. Quelli sono disponibilissimi. Allora, scusa Fiorella, dimmi, dove si telefona per sapere? Perché mi avevi detto che la domenica era già piena, quindi per il sabato 8 eventualmente. Allora, ci potrebbero essere ancora posti. Sì, sì. Dunque 0478 518759. Ripeto 0478 518759. Altrimenti un'email a vai.belgio@gmail.com. Sì, quindi diciamo è bello per partecipare, perché visto che si tratta di bambini è ovvio che insomma poi loro sarebbero molto gratificati, cioè lo sarebbero gli adulti, ma a maggior ragione i bambini, però al di là della partecipazione diciamo attiva, cioè dell'essere presenti, ovviamente si può comunque dare un contributo in vario modo, diciamo in tutti i modi, tutti gli aiuti così qualsiasi cosa è bene accetto, tutti, basta che vanno a finire su un conto il vostro conto presso la banca Montepaschi. Volete che te lo ridò? Ripetiamolo. Già che ci siamo. Allora, il 643-00-20-484-94, intestato Volontaria Assistenza Italiana. E visto che l'anno scorso noi ci eravamo visti proprio di quest'epoca e c'erano tippete e tappete, ti ricordi? Brava, sì. Allora questa, l'anno scorso i tippete dei peluche, no, degli enormi peluche, e hanno detto che sono andati nelle case dei bambini che sono divertiti, dunque sono arrivati anche degli amici di tippete e tappete, cioè ce ne saranno altri e vengono da tutti i paesi anche quelli. Ma come si chiamano? Quello hanno detto che non si chiamano amici di tip de tap. C'erano nomi stranissimi. E dunque anche loro vogliono andare in casa di bambini, vogliono divertirsi, dunque venite per cortesia, venite anche a comprare. Non volete venire a comprare i soldi della tombola, ecco. Va bene. O mangiare una fetta di panettone o una fetta di pandoro. Ci sono le pizze, ci sono le torte salate, ci saranno le frittate, ci saranno le caprese. Frittate no. Hai rinunciato? No, perché Fiorella le dovevi fare tu, perciò adesso dici no. Allora no, perché abbiamo fatto per l'ultimo spettacolo teatrale di giugno, abbiamo fatto un brunch gratuito offerto dalla RAI e sono abbastanza persone e mi era toccato da fare delle torte di cioccolata, delle caprese, delle frittate e delle caponate, cioè ho sbattuto più uova io in una settimana. Basta. Però vedi, sono andate a ruba, sì, piacciono assolutamente. Questa volta più che altro farò delle torte caprese. Abbiamo fatto una serata, abbiamo fatto 100 dolci, 100 dolcetti, pan di Spagna tutto spiano, con decoro in pasta di zucchero. È stato un lavoraccio, però eravamo 4-5 scatenatissime donne. È stata un'occasione bella per ritrovarci e abbiamo imparato a fare le rose di pasta di zucchero e quindi abbiamo anche imparato qualche cosa. Ecco, su questa occasione, se posso dire, tu dici è stata una bella occasione, sì. È stata un'occasione però per ricordare una nostra carissima amica che purtroppo è scomparsa. Certo. E il Monte dei Paschi ci ha offerto questa serata, una serata in allegria. Una serata con la Sheltro Night Band, abbiamo ballato tutta la notte, perché per ricordare questa nostra carissima amica, che tra l'altro è stata la nostra vicepresidente e una delle fondatrici, perché lei amava vivere, dunque, e abbiamo effettivamente fatto una serata all'insegna della vita in quanto amicizia, ma vita data per gli altri, perché tutto il ricavato poi è stato dato alle persone. Dunque io penso che sia stato il momento, forse la maniera più bella di ricordarla. Di ricordarla e di salutarla. E io ci tengo molto perché il suo esempio è sempre presente. Sì. La sua presenza. Le avete reso omaggio. Sì. Sì, ma sempre, quando dobbiamo prendere delle decisioni, ci chiediamo. Sì. Che cosa avrebbe fatto Fiorella? Sì. Fiorella. Non io, perché non lei. Si chiamava Fiorella. Fiorella, sì. Dunque. Sì. Allora, io vorrei fare una breve parentesi perché c'è anche un altro spettacolo teatrale, questa volta non riguarda la VAI, però diciamo mi piace menzionarlo perché anche questo si terrà sabato e domenica prossimi e si tratta dello spettacolo Renzo e Lucia, che è realizzato dal gruppo della Bottega Magica ed è uno spettacolo che ci sarà al Teatro Beaux-Arts è uno spettacolo che ci sarà quindi il sabato alle 20. E un attimo solo che controllo l'orario. La domenica alle 17, quindi è alla stessa ora dello spettacolo, quindi della VAI. Però ovviamente abbiamo già detto che allo spettacolo della VAI la domenica comunque è già completa. Quindi chi non trova il biglietto per i bambini, chi non trova il biglietto per andare allo spettacolo della VAI al Teatro Saint-Augustin può andare appunto a questo spettacolo Renzo e Lucia, che ovviamente si ispira al Manzoni, ma diciamo è una storia un po' così rimaneggiata di Renzo e Lucia. E quindi ripeto, Teatro Beaux-Arts sabato 8 dicembre alle 20 e domenica 9 dicembre alle 17. Renzo e Lucia, per informazioni 0475 26 59 21 oppure 0475 897812. La regia è di Vito La Raspata e di Ortensia Semoli. E ritorniamo invece alla VAI. Allora, le calze della Befana, quando è che si possono e dove si possono acquistare? Allora, intanto si possono trovare per esempio presso questi spettacoli che voi sì, organizzate? Sì, sì, sì, sì. Se qualcuno fosse interessato, magari perché farebbe io bene a dirlo. Le abbiamo qui in radio, ma purtroppo non possiamo mostrarle, non siamo ancora in televisione. Possiamo assaggiare ciò che c'è dentro. Certo, no, c'è anche un piccolo gioco, ci sono dolcetti, soprattutto sono tutte cucite. E sono bellissime, fatte a mano, eccetera. Sì, sì, sì. Ce le potete spiegare? Magari come sono fatte queste calze? Allora, di che colore? Allora, quest'anno non sono soltanto rosse come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo voluto un po' cambiare, quindi ce ne sono di verdi, di grigie, con il finto pelo, con le renne rosse, verdi, con le stelline colorate. Chi più ne ha più ne pizzi vari. Quindi avete fatto vari modelli. Sì, sì, quest'anno ci siamo lanciate, abbiamo fatto anche il doppio della fatica, quindi perché ogni calza è diversa. Uh-huh. E quindi ogni persona che l'ha avuta nelle mani ha espresso così la sua vena, la sua indole. Abbiamo fatto anche dei sacchetti porta tutto. Che sono nati come portamollette, poi alla fine si sono trasformati anche in qualcos'altro, che sono belli, si possono tenere in casa e usare tutti i giorni, non è proprio una cosa natalizia, quindi abbiamo pensato anche a chi... Sono degli oggetti che si usano legati settimane e poi si mettono in quindi abbiamo cominciato a settembre comprando le stoffe, uh-huh. Poi sono state tagliate, sì. Pannolenci, quindi da tela settembre di sacco. Addirittura, sì. Insomma, c'è un bel lavoro dietro queste calze. È durato 2 mesi circa, sì, sì, sì, sì, sì, sì. E le calze, c'è un'offerta minima che può essere fatta per... Molto massima. L'offerta minima è chiaro che va bene. Insomma, non ce la sentiamo di al buon cuore dei radioascoltatori. Quest'anno abbiamo deciso di sperare, speriamo in qualche cosa più dell'offerta minima che noi vorremmo chiedere, insomma. Va bene, d'accordo. Quindi non la volete dire proprio perché volete lasciare aperta, diciamo, questa porta. Se qualcuno non potrà molto, l'avrà lo stesso. È giusto che magari chi non ha grosse possibilità, ma vuole comunque partecipare, lo possa fare. Qualcun altro più generoso compenserà. Ecco, un po' questo è il fatto. E adesso le diamo a Christie's. Noi speriamo di venderle tutte già il 4 dicembre in un'occasione, insomma, sempre di un'altra occasione in cui siamo invitate, e poi le porteremo naturalmente anche l'8 e il 9. Se qualcuno volesse ordinarle può appunto sui nostri ci sono delle foto Vai, oppure anche sulla telefonando oppure sulla c'è la possibilità di averle anche raggiungendo sì. Comunque se andate su Facebook ci sono delle foto, potete anche vederle, quindi ecco. Si possono visualizzare da Facebook. Sì, sì, sì, quasi. Allora, quindi resta un minuto, diciamo 2 minuti massimo. Vogliamo fare brevemente, ricordare quindi quali sono gli avvenimenti più importanti a breve della VAI? Beh, a breve c'è questo teatro Pierino il Lupo, sabato e domenica, e potete... ci sono ancora pochi posti per la serata di sabato 8 dicembre. Per la serata di sabato. Poi speriamo di rivedervi tutti quelli che non possono venire questa settimana, il mese di gennaio, 18, 19, 20, Piedi Nudi del Parco. Poi il mese di marzo, ci sono 2 weekend Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice nel Paese. Se volete mettetevi su Facebook oppure telefonate a Radio Alma, vi daremo tutte le indicazioni così potete seguirci, saprete dove siamo, come potete aiutarci, offrite il vostro tempo, ecco, ci servono delle persone che possono, diciamo, come possono aiutarci, sono delle volontari per l'ospedale. Ci servono delle persone. una volta alla settimana, l'impegno sarebbe, diciamo, circa più una o meno volta, una volta. Ce ne sono anche le nostre volontarie, dunque sarebbe anche iniziare, soprattutto uno inizia, poi vediamo un attimo come va, come intanto che ci dia un supporto, possiamo contare, se possono invece dare una mano durante gli eventi, proponendoci eventi anche, quello sì, quello è molto importante, non lo so, un cantante, un musicista, un attore, d'accordo, si rivolga a noi. Ci abbiamo anche tanti altri progetti, ma finché non sono realizzati non ne parleremo e speriamo di poterli. Ecco. E noi ci rivediamo fra un anno? E come no, molto volentieri, impegniamoci sin da ora. Allora, benissimo. Grazie a Daniela Rizzo. Sì. E buona serata e in bocca al lupo per tutte le attività. Crepi e forza vai. Forza vai. Grazie a Fiorella Cavaliere, grazie di essere venuta, di essere tornata, ci fa molto piacere. E ovviamente grazie ad Anna Maria. Grazie a te Rosanna. E naturalmente I Colori dell'Anima torneranno di nuovo lunedì alle 21, quindi mi raccomando, rimanete sempre con noi con Radio Alma 101.9. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, grazie.